fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. È mercoledì 31 ottobre del 2018, quindi una notte speciale al convento. Si dice essere la notte più paurosa dell'anno, non lo sappiamo, quello che sicuramente sappiamo è che noi ci stiamo divertendo, stiamo provando a divertirci, quindi in diretta Resto Radio Convento anche questa sera. Solitamente in questo spazio parliamo con i festeggiati, per l'occasione parliamo anche con qualche ospite vero e proprio, con qualche maschera di questo grande Halloween 2018. E come non esordire in questa lunga nottata con, direi, una delle tante rappresentazioni per eccellenza della paura di Halloween, del dark, chiamiamolo così. Abbiamo, signore e signori, la personificazione italiana della famiglia Adams in onda con noi. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Anche da parte mia. Oh, eccolo, vedi che lui è personaggio fino in fondo. Quindi io direi, se vi va, partiamo con le presentazioni. Personaggio e nome nella vita vera, vai. Zio Fester. Fester. Ha proprio Fester anche all'anagrafe. Fester. Bello, bello. Tra l'altro siamo in radio, quindi devo aiutarvi io dal punto di vista dell'immagine. Come dire, corredato di gobba. Non sappiamo se è vera oppure no, però corredato di gobba. Ma sappiamo per certo che porta fortuna. Porta fortuna e corredato, lo dico senza colpa, visto che condividiamo questa passione, anche con la stessa capigliatura dello zio. Quindi fedelissimo e, come si dice, nella parte fino in fondo, insomma, completamente attinente al personaggio che presenta e recita. Poi vorrei precisare che non siamo pelati, ma diversamente pettinati. Diversamente pettinati, bravo, diversamente pettinati, corretto. Poi, avanti. Io non lo voglio dire, vabbè, mercoledì Stefania. Mercoledì Stefania, arrivata anche al giorno giusto, quindi, anzi no, scusa, ormai sei già passata di moda da 51 minuti. Sì, da questa parte, mercoledì, anche lei tutta trecciolata, insomma, di tutto punto. Poi? Poi Gomez e nella vita sono Guido. Oh, bello, bello Gomez, anche lui. Baffetto vero o disegnato? No, disegnato. Ah, disegnato. Nella vita? No, no, glabro? Glabro. Mai avuto la gioia della barba o...? No, provata qualche volta ma da fastidio, tolta. Sei uscito dal club alla svelta. Sì. Diversamente capelluto pure lui. Anche lui? Ah, va bene, bene. Taci Mortisia. Beh, per questa sera ha provato l'ebbrezza della chioma. Esatto. Visto che anche a me è capitato per qualche carnevale, rubo qualche secondo in più al Gomez, quanto è bello poi fare tipo così, che schiocchi tutti i capelli, non ti viene un po' il vezzo di non smettere più? No, non mi viene. No? Sinceramente no, non invidio nessuno, guarda, sto bene pelato. Ah sì, dici. Anzi, diversamente. Diversamente, bravo. Come dicevi. Io invece in qualità di zio Fester vi invidio molto, dico, ai capelluti, quelli che fanno lo schiocco di chioma. Guarda che... No, io non ho collo. Devi provare Morticia, scusami, devi provare Gomez. Devi provare. Ti ha scambiato per Morticia. No, mi è venuta un attimo di lapsus. Devi provare perché guarda che poi non smetti più. Te lo posso assicurare. E per concludere, giustamente, dulcis in fundo, Mortisia, la signora della casa, Mortisia. Nella vita reale? Mortisia. Mortisia, sempre, sì, comunque. Direi che va bene così. Con tutta la gioia che porta nel cuore il nome e il ruolo. Esattamente. Che la contraddistingue. Che la contraddistingue. Allora, ragazzi. Ha già potato 10 rose stasera, Erano nostre? Caspita. Quindi dobbiamo chiamare il giardiniere per esatto, domani. Dobbiamo diamo la colpa a lei. Sei licenziato. Aveva già cominciato con gli ulivi qua fuori, Madonna, insomma, sempre più in grande. Punta sempre più in alto. E per la sua gioia, quando vede del verde, pota, Allora, io non sono ferratissimo in materia, magari voi sì. Chi manca del gruppo? Manca Mano, che l'abbiamo lasciata a casa. Mano e? No, non c'è poi tutti, no? No, manca... Ah, c'è il ragazzetto. Lerch. Manca Lerch. Lerch, brava. Lerch. E il fratellino di mercoledì. E il fratellino di mercoledì. E il cugino It anche. Bravo. E anche la zia pazza, che non mi ricordo come si chiama. Anni 80, giusto? Siamo negli anni 80? Sì, esatto. Sì. Beh, direi caratterizzato gli anni 80. Insieme a molte altre cose. Sì. E voi da dove venite? Dicevate fuori onda? Gomez e Mortisia da Mantova. Yes. gli altri due da Brescia. Da Brescia, coppie anche nella vita, immagino? Sì, certo. Ok, ok, chiaramente fuori dai ruoli, perché no, qui c'è un incesto. C'è un incesto pericoloso e dannoso, quindi vogliamo mettere al riparo tutti i bambini all'ascolto. Che noi non... siamo a posto, No, no, voi siete assolutamente abili, arruolati, ma timbrati. E loro due, insomma, è sottolineiamo che ecco solo. Anche perché noi siamo minorenni. Sembra, ma abbiamo 17 anni. Ti piacerebbe, ti piacerebbe. Sono accompagnati dai genitori, infatti. Ah, certo, certo. Bello, bello, bello, mi piace. E cosa fate nella vita vera, se, vi, se potremmo dircelo? Io Mortisia. Ah, sempre, esatto. Io studio il triangolo delle Bermude. Bello, bello. E perché, perché c'è un po' moria di persone che fanno quel lavoro, quindi ti sei inserito in una nicchia di mercato. Per fortuna. Per fortuna. C'è moria. Sì, sì, esatto. Questo giorno. Sì, bravo, bravo. Mi piace il tuo humor inglese sul petto, sul petto. Io ho fatto domanda per fare il becchino. Adesso dovrò fare un esame qui a breve, ma probabilmente entrerò. Anche perché giustamente dici c'è un armadio tutto nero, dovrò capita. Usarlo in qualche modo. Capita. Dovrò usarlo in qualche modo. Esatto. E io mi annoio. Bello, bello, che è uno dei ruoli migliori. Come quelli che non si arrabbiano mai. Stanno quelli stanno beati, si annoia. Bello. E come allora dacci un po', facci un po'. Di solito su YouTube si fanno i tutorial delle cose serie e importanti. Facciamo un tutorial di cose inutili. Come si fa ad annoiarsi? Perché è difficile al giorno d'oggi annoiarsi con tutte le gli input che ci sono, le tecnologie. C'è sempre un modo per passare il tempo. Quindi aiutaci ad annoiarci. Basta starne alla larga da tutto questo. Ah, quindi disintossicarsi dalla tecnologia. Beh, viene a bere il tè da Mortisia spesso. Sì, sì. Ma il tè però da teina, quindi dovrebbe pum pum, no? No. Non carica. Ah, effetto. A noi non fa effetto. A voi non fa effetto. No. E come combatti, cioè nel senso, quindi non combatti l'ansia di occupare il tempo, no? No. Stai bene così? E la vedo infatti bella rilassata nei lineamenti. Cioè questo poverino c'ha le occhiaie che partono un quarto d'ora fa e non sono ancora finite. Vedi, invece lei è bella tranquilla, pacifica. Sì, a parte il costo delle bambole, perché quando ci continua a chiedere le bambole per Santa Lucia continuiamo a regalarle e lei continua a decapitarle. Ma quanti anni hai adesso? Pure le bambole, ma quanti anni hai? 14. Sì, per 30. Forse meno. Diciamo che l'età delle bambole è quasi finita. Potresti iniziare a pensare ad altro, no? È quello che dico anche io. Scusa, hai appena detto che sei minorenne. Sì, esatto. Ma dipende. Ti contraddici. Senza IVA sono minorenne, tu IVA sono maggiorenne. Okay. Esatto, dipende dalla convenienza, della risposta, dal insomma. Esatto, bravo, bravo, dal momento. Immagino di sì, però vi siete sentiti per organizzare la serata e la costumata o è nata un po' per caso? Hanno organizzato tutte le donne. Ah, le donne, e voi vi siete accodati da bravi, da bravi maschi alfa. Ovvio. Intanto che ci annoiavamo, sì, esatto. Bello, bello. E da dove è nata l'idea della famiglia Adams? Beh, ovviamente Halloween, cosa vuoi fare? Beh, non so, ci possono fare tante cose, per quello chiedevo il perché della famiglia, se c'è un perché, magari non c'è. Ma perché abbiamo Fester che lo rappresenta in tutto. Quindi diciamo che lui, esatto, è partito come modello, infatti, uno e poi gli altri. Noi ci siamo a ruota, a ruota. Infatti sì. Fuori prima in discoteca l'hanno salito con le fotografie. Giusto, giusto, insomma, celebrità è un duro prezzo da pagare, Esatto. Anche perché, vai, scusa. Avevo una folta chioma che arrivava fino a metà schiena, mi sono dovuto rasare a zero. Giusto. Per interpretare questa parte. Giusto. E tra l'altro portarla gratuitamente al convento. Bravo, esatto. Bravo, grazie. E noi in dono ti abbiamo dato delle rose, vedi che abbiamo fatto in modo, esatto, che prendeste delle rose. Per la gioia di Mortisia. Per la gioia di Mortisia. Perché mercoledì è decapitato poi, mercoledì, esatto. Mortisia. Esatto. Mercoledì le bambole. Mortisia decapita, esatto, le rose. Esatto, esatto. Tra l'altro come dire, la vita di zio Fester è particolare e strana, perché nella serie è palesemente un personaggio di serie B, però è quello che rimane più nella memoria di tutti. Cioè, nel senso, se pensi alla famiglia Adams, nonostante Fester sia un personaggio secondario, ma il primo che ti viene in mente è lo zio Fester. È lo zio Fester. Esatto. Come mai? Senti il peso di questa responsabilità? Allora, cioè di questa nomea? Io praticamente fui concepito, sì, come zio Fester. Cioè già da tempi, no? Ah, fosti zio, ci chiamano, ci vogliono. Fosti zio. Cioè, sei già nato zio. Esatto. Bello. Cioè, i miei genitori mi Difficile. Concepirono Difficile. Con l'idea dicendo un giorno al convento ci sarà un zio Fester che farà la differenza. Bello, unico e inimitabile. Tra l'altro, per chiudere, perché è una curiosità che tutti si stanno chiedendo, è questa dieta particolare che Fester segue a forza di lampadine neon. Che è tutta la sera che c'ha in bocca una lampadina e se la sta sgranocchiando con calma, manco fosse un chupa chupa. E poi, c'ha i petardi in macchina, abbiamo il baule pieno di petardi e dinamite, però. Sai che non manca, certo, la dinamite. Certo, per fare festa. Esatto. Quindi... Ma tu sei mio cognato, quindi? È praticamente una roba del genere, sì. Beh, bello scoprirlo adesso, insomma, ci avete messo del tempo, però l'importante è arrivare ai noccioli delle questioni. Cioè, quindi mi stai dicendo che non siamo al convento, ma siamo a C'è Posta per Te? Madonna, lo share è impazzito zio lo share. È qui! Tra l'altro si è appena palesata fuori dai nostri vetti Barbara D'Urso, che vi aspetta domenica pomeriggio in puntata per parlarne dopo Corona e la lite con Ilari Blasi. Ci siete voi. E volevo tornare alla dieta delle lampadine. Chi te l'ha consigliata e che benefici porta? Ma guarda, sostanzialmente ho fatto tutto da solo, ma perché zio Fester nasce ecocompatibile. E quindi queste sono lampadine a LED a basso consumo. Sì. È un particolare molto molto molto importante. Solo che ultimamente, negli ultimi mesi, ci è calato un po', perché con l'avvento dei LED, sai com'è? Sì, il mercato è calato. È calato anche zio Fester. Certo. Anche, esatto, che con LED, consumando meno, in magazzini meno calorie. Esatto. Meno calorie. Però insomma, se si vuole tenere in forma e mantenere giovane. Esatto, se si vuol mantenere giovane in forma per il ruolo che deve recitare, bisogna un attimino anche tenersi in riga col cibo e col movimento. Bene ragazzi, allora vi facciamo continuare questa lunga festa, grazie di essere stati con noi e ci rivediamo alla prossima puntata. Certo, ciao a tutti. Da una parte ci spiace lasciare questi 4 metri quadri liberi in cui possiamo stare in piedi agevolmente, perché dall'altra parte in sala c'è pieno sbombato e non... Esatto, l'assurdo è che c'è meno spazio ma si sta più comodi qui dentro che in una sala completa, in cui c'è più spazio ma si sta più rannicchiati, quindi sono le stranezze della vita. Ciao a tutti, viva il convento! Grazie mille ragazzi, buon divertimento, ciao!